Okay. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-awakened one. Omaggio al Buddha, il benedetto, nobile, pienamente risvegliato. So this evening I want to go through the principles of meditation. Questa sera vorrei esaminare i principi della meditazione. Mainly for the benefit of those who are new to the practice. Soprattutto per beneficio di quelli che sono nuovi alla pratica. And then to talk a little about this technique and why we use it. Parlare un po' di questa tecnica e del perché la usiamo. So the first things we need to know is what does the Buddha mean by right awareness? La prima cosa da sapere è cosa intende il Buddha dicendo retta consapevolezza. And then we need to know how to deal with what takes us away from right awareness. E poi dobbiamo affrontare ciò che ci porta via dalla retta consapevolezza. And then of course we need to know what it is we're supposed to be investigating. E poi dobbiamo sapere che cos'è che si suppone noi dobbiamo indagare, investigare. The first one, I like to just recall the actual biography of the Buddha, how he came to be fully liberated. Quindi per prima cosa vorrei richiamare la biografia del Buddha e vedere come è giunto ad essere pienamente liberato. So he left home seemingly at the age of 29. Dunque pare che se ne sia andato di casa all'età di 29 anni. I think he must have discussed this with his family and his wife. Credo che ne abbia discusso con la sua famiglia e con sua moglie. Because they, although they must have been upset, I'm sure he said, "I'll be back in a couple of months or so." Perché anche se loro ne sono stati piuttosto turbati, probabilmente lui ha detto, "Tornerò tra un paio di mesi circa." So he left with what we would call an existential crisis. Quindi se n'è andato a causa di quella che chiameremo una crisi esistenziale. In the mythology this is expressed as one day coming across a very old person, a very sick person, as a corpse and then an ascetic sitting under a tree. Nella mitologia questo viene espresso come l'incontro con un malato, con un vecchio e poi con un cadavere e poi con un ascetico. So he began to realize that just as sickness approaches other people, he himself would get sick and he himself would get old and he himself would die. E quindi comincia a rendersi conto che, come succede alle altre persone, anche lui un giorno si sarebbe ammalato, sarebbe invecchiato e sarebbe morto. And I think this happens to all of us, should we say, towards the end of youth. E credo succeda a tutti, diciamo verso la fine della giovinezza. Somewhere between 25 and 30. Tra i 25 e i 30 anni. Suddenly life is not endless. Improvvisamente vediamo che la vita non è infinita. And if you haven't understood that then, it probably hits you in middle age. E se non l'avete capito allora, probabilmente lo capirete nella mezza età. And if you miss that point, probably when you're dying. E se mancate anche questo secondo appuntamento, probabilmente in punto di morte lo capirete. So he left with this idea. Seeing the ascetic under the tree was some feeling in him that there must be an escape. E vedendo questo asceta sotto un albero, nasce in lui la sensazione che ci possa essere una via d'uscita. In those days the obsession was constant reincarnation. A quei tempi l'ossessione era la reincarnazione continua. How did you get out of the loop? Come uscire dal ciclo? So there were many ascetics already when he began. Quindi quando il Buddha cominciò c'erano già molti asceti. These were the samanas who had come out of the Brahminical religion. Erano i samanas che erano usciti dalla religione brahminica. They were trying to search a different way. Cercavano una via diversa. Like the hippies in the 70s. Come gli hippie negli anni 70. And there were very famous teachers at the time. C'erano insegnanti molto famosi all'epoca. So he went to two of them and they taught him how to develop what we call the absorptions. Lui si recò da due di essi che gli insegnarono come sviluppare quelli che chiamiamo gli stati di assorbimento. Jhana. And in both cases they invited him to become a teacher. E in entrambi i casi gli offrirono di diventare un insegnante lui stesso. So we can see that very quickly he became an adept at that sort of meditation. E quindi capiamo che molto rapidamente divenne esperto in questo tipo di meditazione. But what he found was that when he came out of this beautiful mental state, he was anxious and depressed. Ma quello che scoprì è che una volta uscito da questi bellissimi stati di assorbimento, provava ansia e depressione. Once a person becomes an adept at developing these inner states of ecstasy, quando si diventa esperti a sviluppare questi stati interiori di estasi, and you find this in all religions, questo è un fenomeno di tutte le religioni, through repetitive prayer, through mantra, visualizations, si raggiungono attraverso preghiera ripetitiva, i mantra, le visualizzazioni. All you need in the tropics is a loincloth and a little bowl to get food and a tree to sit under. Nel clima tropicale c'è bisogno soltanto di uno straccio attorno alle reni, di una ciotola per il cibo e di un albero sotto cui sedersi. And you can be blissed out all day. E poi si può vivere nella beatitudine tutto il giorno. So obviously this didn't particularly work for him. E ovviamente per lui questo non funzionava. So he tried a different method, which was the great teacher of that was the founder of the Jain religion, the Jainas. E quindi provò un metodo diverso. Il fondatore di questo metodo è stato il fondatore del Jainismo, della religione jainista. The Jain leader, the Nigantha, was an elder contemporary. Quindi questo leader dei Jain era un contemporaneo del Buddha, ma più anziano. The understanding there was that the body itself was the product of your karma. E l'idea, la comprensione in questo caso era che lo stesso corpo, il corpo stesso, è un prodotto del nostro karma. Of your past moral actions. Delle nostre azioni morali passate. And the idea was to let go of the body so the soul would rise naturally into heaven. L'idea era di lasciare andare il corpo in modo che l'anima si sollevasse naturalmente verso il cielo. And even today you will find especially elderly Jain people towards the end of their lives just stop eating. E ancora oggi alcuni Jain, soprattutto gli anziani, quando arrivano verso la fine della vita, smettono di nutrirsi. So the Buddha, the Bodhisattva at that time tried this seemingly for about 4 years. E quindi il Buddha pare che abbia provato questo metodo per circa 4 anni. And he got very thin. E dimagrì molto. Ah, he said he could hold his spine through his stomach. Diceva che poteva toccarsi la spina dorsale attraverso lo stomaco. Ah, so if you try that now you'll see how thin he was. E se ci provate adesso vedrete quanto era dimagrito. And unfortunately he found it was just more suffering. Sfortunatamente tutto ciò che trovò fu altra sofferenza. So he leaves his five companions who are disgusted with him. Quindi abbandona i suoi cinque compagni che ne sono disgustati dalla sua rinuncia. Because they thought he'd gone soft. Perché pensavano che si fosse arreso, si fosse rammollito. So now we have to picture him on the roadside, probably feeling a little despairing. Quindi dobbiamo immaginarcelo al fianco della strada, probabilmente in uno stato di disperazione. He's tried everything and he doesn't see an answer, and so he must be in a state of even deeper depression, I think. Ha provato di tutto, non ha trovato una risposta, e quindi penso sia debba trovarsi ancora più depresso. And at that time it would seem a woman passes by with some sweetmeats for the local shrine. E pare che in quel momento sia passata una donna del posto con delle carni dolci da portare in offerta al santuario locale. But seeing this poor man, she offered him some. E vedendo questo poveretto gli ha offerto un po' da mangiare. In the scriptures it says that he shone like a god. Nelle scritture si dice che lui risplendeva come un dio. So that's up to you whether you believe that or not. Quindi a scelta vostra, potete crederci oppure no. But the thing was that it revived him. Ma comunque la cosa certa è che questo cibo gli ha dato nuova vita. And about this time he remembers this memory of watching his father as a little boy. E gli torna questo ricordo d'infanzia di quando osservava suo padre. His father was doing the opening plowing ceremony for the plowing season. Suo padre stava arando un campo ed era la cerimonia di apertura della stagione dell'aratura. So we can imagine this 4, 5, 6-year-old watching his father wondering, you know, what he's doing. Quindi possiamo immaginarci questo bambino di 4, 5, 6 anni che osserva il padre e si chiede cosa stia facendo. And what he remembers is that he was in the same level of concentration as these concentration exercises. E quello che si ricorda è che a quell'epoca aveva lo stesso livello di concentrazione che poi aveva raggiunto durante gli esercizi di concentrazione. But with this added quality of curiosity. Ma in più, quando era piccolo, c'era questa qualità di curiosità. Now, although he'd already had insights into the cause of suffering, pur avendo già avuto delle intuizioni circa le cause della sofferenza, for instance, he realized that when he had unwholesome thoughts, it produced more unwholesomeness in him. Per esempio si era reso conto che i pensieri non salutari provocavano ulteriori condizioni non salutari interiori. And when he had good thoughts, of course, he felt better for it. E quando aveva dei pensieri buoni si sentiva meglio. But here it seems that his practice turned around upon itself. Ma pare che a questo punto ci sia veramente un punto di svolta della sua pratica. Instead of trying to be happy, to try to seek the escape from suffering in happiness, invece di cercare di essere felice, no? Di trovare una via di fuga dall'infelicità nella felicità, he turns inward to try to discover how he creates suffering in the first place. Si volge verso l'interno e cerca di scoprire com'è che ha creato questa infelicità all'inizio. And so he finds a nice tree by the bank of a river. Trova un bell'albero sulla sponda di un fiume. And he makes the determination to crack this problem. E formula la determinazione di risolvere questo problema. But a great doubt arises in him. Ma in lui sorge un grande dubbio. And this again is put mythologically as Mara, the evil one, attacking him. E anche qui mitologicamente viene raffigurato come Mara, il male, il demonio, che lo attacca. And the question is, who are you to try to find the end of suffering? E la domanda che gli pone è, chi sei tu per osare cercare la fine della sofferenza? Ah. And at that time, the earth goddess rises to defend him. E a quel punto la dea della terra sorge per difenderlo. And she says, he has every right to seek the end of suffering because he has perfected the virtue of generosity. E dice, ha ogni diritto di cercare la fine della sofferenza perché ha perfezionato la virtù della generosità. In other words, he wasn't just doing this for himself, he was doing it for his loved ones and for humanity. In altre parole, non lo stava facendo solo per sé, lo stava facendo per i suoi cari e per l'umanità. Ah. And that's what gave him the strength to make this determination. E questo è ciò che gli ha dato la forza di esprimere tanta determinazione. He said he would sit there and crack the problem or die. E disse che sarebbe rimasto lì seduto fino a risolvere il problema oppure sarebbe morto. So I always say very lucky for him, lucky for us, 6 hours and he made it. Quindi dico sempre, fortunatamente per lui e per noi, in 6 ore ce l'ha fatta. So the point of this introduction was to bring about this insight he had about being a child. Lo scopo di questa introduzione era di sottolineare questa sua intuizione avuta ricordando quando era bambino. Mm. So what is it about the way the child looks at the world which we have lost? Cosa c'è nello sguardo del bambino sul mondo che noi abbiamo perso? Ah. So, if you remember, how a child looks when it first sees something for the first time. Ricordate come guarda un bambino quando vede qualcosa per la prima volta. Mm. So the first time, for instance, it sees a spider. Per esempio, la prima volta che vede un ragno. You can see that the eyes lock onto the object. Potete vedere che lo sguardo viene catturato dall'oggetto. The world disappears. Il mondo scompare. They are completely absorbed. Sono completamente assorbiti. And the important thing is the jaw drops, eh? E anche la mandibola cade, la bocca si apre. So from our point of view, they're just wasting time, they're gormless. E quindi dal nostro punto di vista stanno solo sprecando tempo. You give them a clap on the back of the head to wake up. Gli diamo uno scappellotto e diciamo svegliati. And in that moment destroying any ability to become fully liberated. E in quel momento distruggiamo ogni abilità di raggiungere la piena liberazione. So now, when the child has had time to absorb the information. Quando il bambino ha avuto il tempo di assorbire l'informazione, The child always turns round and asks, "What is it, mummy, daddy? What is it?" Si rivolge al papà o alla mamma e chiede che cos'è. And the answer is, "That's a spider." E la risposta è, quello è un ragno. So now the child has a photocopy in the mind of a spider. Quindi adesso il bambino ha una fotocopia mentale del ragno. And a label. E ha un'etichetta. Ah. And so the next time it sees a spider, this photocopy connects with the spider. La volta successiva che vede un ragno, quella fotocopia si collega al ragno. And the child rejoices and turns to the mother and says, "Spider, spider." E il bambino esulta e si rivolge alla mamma e dice, "Un ragno, un ragno." Ah. And mommy says, "Very good." E la mamma dice, "Bravo, molto bene." But that child did not see that spider. Ma il bambino non vede quel ragno. What he saw was his photocopy placed on that spider. Quello che ha visto il bambino è la sua fotocopia sovrapposta al ragno. He'd already lost the ability to gaze without words, without photocopy, to see that individual spider. Ha già perso l'abilità di osservare, di vedere quel ragno individuale, senza parole, senza fotocopie. We are doing that all the time. E questo noi lo facciamo continuamente. The whole of our lives is trying to fit the world into our concept of the way it should be. Sì, tutta la nostra vita è questo tentativo di adeguare il mondo al nostro concetto di come dovrebbe essere. So that is why all these Vipassana, Dzogchen, Zazen, whatever insight meditation you get in Buddhism. Ecco perché la Vipassana, il Dzogchen, lo Zazen, qualsiasi meditazione di visione interiore profonda, always draw you back down to the body. Vi riporta sempre giù al corpo. To feeling, to sensation. Alle sensazioni, alle percezioni. To the actual scent, the smell of something in your nose. Al profumo, all'odore di qualcosa sentito nel naso. The taste, the texture of what is in your mouth. Il gusto e la consistenza di quello che avete in bocca. And with an emotion, it's feel the sensations in the body. E quando si tratta di un'emozione, proprio la sensazione corporea. So we'll come to that a little bit more at the end. E ci torneremo verso la fine. But keep in mind, if you ask yourself, how am I supposed to be investigating? Ma tenete a mente che se vi chiedete come dovrei indagare, just bring to mind the look of that child's face. Portate alla mente il viso di quel bambino, l'espressione di quel bambino. And to develop that quality of gazing. E lo sviluppo di quella qualità di sguardo curioso, sguardo aperto. Yeah, gazing. Di osservare. Difficult, eh? Yeah. For instance, when you walk around and say the countryside here. Per esempio, quando camminate qui attorno. Well, more if you stand here at the top, at the wall. Se state soprattutto qui dove c'è il parapetto. And just pan the countryside like a camera. Osservate, scorrete tutto il panorama delle colline come una macchina da presa. Don't look for anything. Non cercando qualcosa in particolare. Just watch how the eye gives you information as you move. Osservate solo come gli occhi vi danno delle informazioni mentre muovete lo sguardo. So you don't have to look for anything. Quindi non dovete cercare qualcosa di preciso. The eye itself sees, it doesn't need you. È l'occhio che vede, non ha bisogno di voi. So it's the same with this intuitive awareness. È lo stesso con questa consapevolezza intuitiva. It just needs to look, to gaze. Deve soltanto guardare e osservare stupita. To feel, to experience. Sentire e sperimentare. It doesn't need you. Non ha bisogno di voi. This intuitive intelligence is screaming, get that meditator out of the way. Questa intelligenza intuitiva urla, togliete di mezzo quel meditante. So have the picture of the child's mind when you ask yourself, how should I be looking? Quindi ricordate l'immagine del bambino quando vi chiedete come dovrei guardare. Now, the things that take us away are called hindrances. E le cose che ci portano via da questo sono chiamate impedimenti. And tomorrow Gautam will give a more detailed understanding of it. E domani Gautam vi darà una comprensione più dettagliata di questo. In a brilliant way. In modo molto brillante. So I will just give just a general direction. Quindi io vi indicherò solo la direzione generale. There's only two types. Ce ne sono solo due tipi. There's the type that's like a whirlwind, it just flings you away. C'è il tipo di impedimento che è come un turbine, vi trascina via. And there's the other type, which is like a whirlpool dragging you down. E c'è invece l'altro tipo che è come un turbine nell'acqua, come un gorgo nell'acqua che vi trascina in basso. So the first type is anything which excites your mind. Il primo tipo è tutto ciò che eccita la mente. So desires, your aversions, your guilt, your shame, your desideri, avversioni, senso di colpa, vergogna. All your planning. E tutti i progetti che fate. Romance. Le idee romantiche. All these take you away into a dream world. Tutto questo vi porta via in un mondo di sogno. So it's always the same technique. E quindi è sempre la stessa tecnica. As soon as you wake up, you have to recognize and acknowledge what it is that's driving you away. Non appena vi risvegliate dovete riconoscere che cos'è che vi sta portando via. And then you just come back into the body. E a quel punto tornate al corpo. If you can feel the anxiety, the excitement here in the body, you stay with it. E se riuscite a sentire l'ansia qui nel corpo, ci rimanete insieme. And wait for it to dissipate. E aspettate che si dissolva. And see if you can wait to the very end. E vedete se riuscite a starci insieme fino alla fine. Usually as it becomes lighter and lighter, the mind does something else. Di solito quando l'ansia si alleggerisce, la mente comincia a fare altro. But see if you can see it right to the end. Ma vedete se riuscite a vedere, a starci fino alla fine. And at that point you'll experience that liberation from desire. E a quel punto farete esperienza della liberazione dal desiderio. And a little joy arises. E sorge una piccola gioia. So this is a taste of Nibbana. E questo è un assaggio del Nibbana. A heart which does not have these obsessive desires. Un cuore che non ha questi desideri ossessivi. If you don't feel anything, you just go back to the breath. I mean, se non sentite niente, tornate al respiro. The other side is the dullness and the lethargy that make you fall into sleep. L'altra faccia è invece l'ottundimento, il torpore che vi fa cadere addormentati. So, although it's a difficult the first two or three days, afterwards, whenever that comes to you, you have to make a determination not to be annihilated. Quindi anche se durante i primi due o tre giorni è difficile, poi dovete proprio esprimere la volontà di non farvi catturare. No? You make every effort to stay awake. Di fare ogni sforzo per rimanere svegli. And you make those sensations your objects to feel, to observe. E quelle sensazioni diventano il vostro oggetto di osservazione. And if you keep moving your attention inside your head, down the body, that keeps you awake. E se continuate a spostare l'attenzione dentro la testa, nel corpo, questo vi mantiene svegli. And sometimes if it gets too heavy, stand up in the meditation. Se le cose diventano troppo pesanti, potete alzarvi e meditare in piedi. And if even then you can feel it's so heavy, just leave quietly and go for a walk. E se anche allora rimane troppo pesante, potete uscire in silenzio e fare una passeggiata. You have to take the big fat dog for a walk. Dovete up and down. Portare un cane obeso fuori a fare una passeggiata su e giù. Up and down, up and down. Su e giù. And you have to wait for it, for that energy to exhaust itself. E dovete aspettare che quell'energia si esaurisca. In all these cases, the unwholesome energies always are moving towards their opposites. In all these cases, both the exciting ones and the dullness are moving toward. The energy is moving towards. Quindi in entrambi i casi si tratta di energia che si muove verso l'opposto. So what was, shall we say, cruelty or a lack of love will always move towards love and compassion. Ok, quindi quello che era crudeltà o mancanza d'amore si muove verso l'amore e la compassione. And the dullness and lethargy will always move towards pure energy. e mentre il torpore, la sonnolenza si spostano sempre verso l'energia pura. So those are just general directions on how to deal with dullness and, with these hindrances. E quindi queste sono semplicemente indicazioni generali su come lavorare con gli impedimenti. And in fact, if we work with them properly, they are actually our teachers. E in realtà se ci lavoriamo in modo appropriato, gli impedimenti sono i nostri insegnanti. So finally we have to be clear about what it is we are investigating. Infine dobbiamo chiarire che cos'è che stiamo investigando. So the first one is this process of desire. La prima cosa è questo processo del desiderio. And whenever you come off a dream, you always come back to your body. E ogni volta che vi risvegliate da un sogno, tornate nel vostro corpo. And just see, for instance, if you're anxious, or if you're planning a holiday, see, when you come back. E per esempio, se siete preda di ansia, oppure state progettando una vacanza, quando ritornate nel corpo, You might feel the sensations, the feelings. Potreste sentire delle sensazioni, delle percezioni. And see if you can also be aware of this energy that wants to escape back into the dream world. E vedete se riuscite anche a sentire questa energia che vuole fuggire e tornare nel sogno. So you have two objects in your mind, both the physical mental state and that desire. You can feel it. Quindi avete due oggetti nella mente, sia lo stato fisico e mentale, sia quel desiderio. So there, just stay there until that desire completely fades away. E quindi rimanete lì finché il desiderio si svanisce completamente. And the mind stops, E la mente si ferma. So it's really recognizing the process of desiring. Quindi in realtà si tratta di riconoscere il processo del desiderare. The second one is impermanence. La seconda è l'impermanenza. So once the desire is gone and you're just left with feeling in the body. Una volta che il desiderio è svanito, vi rimangono le sensazioni nel corpo. Look at it more closely to see whether it's actually in a process of changing. Guardatele da vicino per vedere se sono, se c'è un processo di cambiamento in corso. And when that becomes clear to you, you can sometimes, as it were, push it away far enough for you to see that it's an object of your awareness. E quando la cosa diventa abbastanza chiara, potete spingerla via a una distanza tale da poter osservare come un oggetto della vostra osservazione, appunto. And because you're the awareness not doing anything, you begin to realize that this is happening of its own accord. E poiché la vostra consapevolezza non sta facendo nulla, vi rendete conto che tutto questo sta succedendo per conto proprio. So this is a direct teaching that of not me, not mine, not self. Questo è l'insegnamento diretto che tutto ciò non è me, non sono io, non è il sé, non è il mio. Every time you're aware of something, you can't be it. Ogni volta che siamo consapevoli di qualcosa, non possiamo essere quel qualcosa. When we were babies, seemingly for the first 4 months, there was just information coming at us from all over the place. We couldn't make sense of it. Quando eravamo neonati, per i primi 4 mesi, pare che tutte le informazioni semplicemente ci giungono senza che noi fossimo in grado di dar loro un senso. And then, after 4 months, it seems the first object appears in all that information. E pare che dopo i primi 4 mesi, per il bambino, compaia, da tutte quelle informazioni che giungono, compaia il primo oggetto. And it's your carer, the mother. Ed è la figura che si prende cura, la mamma. It seems it takes 3 years for that child to separate itself from the world around. E sembra che ci vogliano 3 anni perché un bambino separi se stesso dal mondo intorno a sé. By the process of pushing away. They're looking at it as an object. Quindi è un processo di spingere via, di guardare le cose come oggetti. We are using the same technique to push away everything that we think we are inside us to see it's not me, not mine. E noi usiamo la stessa tecnica per spingere via tutto ciò che pensiamo sia dentro di noi e per vedere che non è me, non è mio. Ah. So those are those three things that you're investigating. Quindi queste sono tre cose da indagare. The process of desire. Il processo del desiderio. So that's your first port of call. That's your first thing. E quindi è la prima tappa. Mm. And then how things are constantly changing. Come le cose cambiano costantemente. So as soon as you identify with something, it's disappeared. E quindi non appena vi identificate con qualcosa, la cosa scompare. Mm. And that everything is an object, just having its own energy, not me, not mine. E che tutto è un oggetto che ha la propria energia, non è me, non è mio. Mm. It's very important that you go through that process with desire and wait for the heart to purify itself. È molto importante che attraversiate il processo del desiderio e aspettiate che il cuore si purifichi. If you go straight for the impermanence and the not self, there's a danger that you're not allowing the heart to exhaust its feelings, you're suppressing it. Perché se passate direttamente all'impermanenza e al non sé, c'è il rischio che non permettiate al cuore di esaurire i suoi sentimenti e che lo sopprimiate, che sia una repressione, insomma. It's called emotional bypassing. E si chiama un bypass emotivo, emozionale. Ah, so, you see, what is happening when you are meditating in Vipassana is the heart is actually purifying. Quindi quando meditate in Vipassana, quello che succede è che il cuore si purifica. Ah, so there's a therapy going on, you see? C'è una terapia in corso. Ah, don't do it for the therapy, because then you miss out on the spiritual insight. Non fatelo per lo scopo della terapia, perché in tal caso vi perdereste la parte spirituale. But if you do it for the spiritual reason, the heart heals itself. Se lo fate per i motivi spirituali, il cuore si guarisce da solo. Ah. And it's very cheap. E costa poco, è economico. Which doesn't mean to say that sometimes you do need a therapist. Perché bisogna dire che in qualche caso è necessario un terapeuta. Especially with relationships. Soprattutto nelle relazioni umane. So we've talked about right awareness and the baby's face. Quindi abbiamo parlato della retta consapevolezza e del volto del bambino. We've talked about how to deal with what takes us away. Abbiamo parlato di come affrontare le cose che ci portano via. All those things that create dreams and the mental states that take us into oblivion. Tutti i sogni e gli stati mentali che ci portano nell'oblio. Mm. And then finally, what it is we're investigating. E infine, cos'è che stiamo indagando? The process of desire, impermanence, not self. Il processo del desiderio, dell'impermanenza e del non sé. So the Mahasi was a teacher who was well known in the middle of Burma during the Second World War. Il Mahasi era un insegnante molto noto nel centro della Birmania durante la Seconda Guerra Mondiale. And when Burma was liberated from British rule. E quando la Birmania si è liberata dal governo britannico, The first government, the prime minister with some rich supporters, il primo governo, il primo ministro con alcuni sostenitori facoltosi, decided to start a meditation center. Decise di istituire un centro di meditazione. And invited the Mahasi Sayadaw to come and teach. E invitò il Mahasi Sayadaw a venire a insegnarci. Such was the success of this methodology that even by the middle 50s he was traveling to Sri Lanka and other places. E il suo metodo ebbe un tale successo che già a metà degli anni 50 viaggiava in Sri Lanka e altre nazioni. And you'll find most teachers use one or two of these methods. E scoprirete che la maggior parte degli insegnanti usano uno o due di questi metodi. I myself try to remain as close to the way my teacher taught me as I can. Personalmente cerco di rimanere il più fedele possibile al modo in cui i miei insegnanti mi hanno formato. So the two techniques were to note and to go slow. E le due tecniche erano notare, quindi formulare etichette, e rallentare, andare piano. So if we remember that whenever we're looking at something, there's always a concept, there's always a word. Quindi dobbiamo ricordarci che ogni volta che guardiamo qualcosa c'è sempre un concetto, c'è sempre una parola. So when you're experiencing something within yourself, a word should come to mind. Quindi quando fate esperienza di qualcosa di interiore, dovrebbe venire alla mente una parola. If it doesn't come, don't be concerned about that. Se non viene, non preoccupati. Just use a general word, feeling, thinking. Usate una parola generica, sensazione o pensiero. And the idea is that the noting word is pushing you to look more closely. L'idea è che questa parola, questa etichetta, vi spinge a guardare più da vicino. It's as though you were looking at somebody coming through a mist. Come se vedeste qualcuno che vi viene incontro nella nebbia. And as they come closer, you can see who they are. E man mano che si avvicinano distinguete chi sono, chi è la persona. Until they come right out of the mist and then you know who they are. Finché la persona esce dalla nebbia e la riconoscete. So you have to keep looking at sensations and feelings until they become very clear. Quindi dovete continuare a guardare sensazioni e percezioni finché diventano molto chiare. His image was throwing a stone at a wall or a tin on top of a wall. La sua immagine era quella di lanciare una pietra contro un muro o contro una latta in cima a un muro. So you're aiming your attention towards the object. State dirigendo l'attenzione mirata all'oggetto. At first it seems a little bit forced. All'inizio può sembrarvi un processo forzato. But because every day is virtually the same. Ma poiché ogni giorno virtualmente è la stessa cosa, You rarely have to find a new word after two or three days. Dopo due o tre giorni sarete costretti a trovare una parola nuova. And of course that's the purpose of repetition. Questo è lo scopo della ripetizione. Then of course you can become a little lazy. E a quel punto si può diventare un po' pigri. And when you come off a dream, you can hear yourself saying rising, falling, rising. E uscendo da un sogno vi sentite dire alzarsi, abbassarsi. So the habit is there and you've got the habit going, so now you can have a dream. E quindi ormai è diventata una cosa automatica e a quel punto lo si può fare pur continuando a sognare. So this is a waste of time. E questo ovviamente è uno spreco di tempo. So it has to be deliberate. Quindi deve essere deliberato. Now some people may find that they're aware of the word more than they are of the feeling. Per qualcuno qualcuno scopre che è consapevole della parola più di quanto lo sia della sensazione. This means that this intuitive awareness is completely identified with the intellect. Questo significa che la consapevolezza intuitiva è completamente identificata con l'intelletto. And those people usually say, noting is a waste of time, I'm not going to do it. E di solito questo tipo di persone dicono, usare le etichette è uno spreco di tempo, non lo farò. Because it's obstructing me, you know. Perché mi ostruisce. But actually they're the ones who really have to do it. Ma in realtà sono proprio loro che devono farlo. They have to, as it were, keep looking through the word, around it, over it, whatever, but keep moving towards the feeling. devono vedere attraverso la parola o attorno, ma continuare finché arrivano alla sensazione, alla percezione. And very slowly the word begins to recede backwards. E molto lentamente la parola comincia a arretrare. And the feeling, sensations, they come much more obvious to the person. E le percezioni e le sensazioni diventano molto più evidenti per la persona. And what this is telling the meditator is that this intuitive awareness is finally releasing itself, escaping from intellectual prisons. E ciò che questo dice al meditante è che questa consapevolezza intuitiva si sta finalmente liberando dalla sua prigione intellettuale. So it's worth doing it. E quindi vale la pena di farlo. Ah. Going slow is very simple. When you slow the body down, the mind slows down. Andare piano è molto semplice. Quando il corpo rallenta, anche la mente rallenta. Ah. And if you want to running through a forest is one thing, walking slowly through a forest you see much more. Quindi attraversare una foresta di corsa è una cosa. Attraversarla lentamente si vedono molte più cose. So you see, the slower you go, the more you see. It's simple. E quindi vedete che è molto semplice. Più andate piano, più cose vedete. And finally, see if you can really note your intentions. E infine vedete se riuscite a notare davvero la vostra intenzione. Remember that in Buddhist psychology, so long as something has an intention, nothing has actually happened. Ricordate che per la psicologia buddista, se finché qualcosa è un'intenzione, non è accaduto niente, non è accaduto niente di reale. Ah, as soon as you empower the intention and it becomes an action. Ma non appena diamo forza a questa intenzione e diventa un'azione. A thought, a train of thoughts, a speech, something you say, an action of the body. Quindi un pensiero, una serie di pensieri, oppure una parola, qualcosa che diciamo, o un'azione del corpo. You are reinforcing a habit. State rafforzando, rinforzando un'abitudine. And there will be consequences. E ci saranno conseguenze. Ah. So make sure that when you empower an intention, it's always a good one. Quindi assicuratevi che quando date forza a un'intenzione, l'intenzione sia buona. And if it's not a good one, all you have to do is just stay still, feel the energy of the desire, wait for it to exhaust itself. Se non è un'intenzione buona, tutto ciò che dovete fare è stare immobili, sentire la forza del desiderio e aspettare che si esaurisca. So this brings us full circle. E questo ci ha riportati al punto di partenza. So just as a reminder, right awareness, the child's face. Quindi, come per un oggetto, l'immagine che ci può ricordare, è la retta consapevolezza nel viso del fanciullo. That hindrances become our teachers when we know how to deal with them. Che gli impedimenti diventano i nostri insegnanti quando sappiamo come trattarli. So anything that takes us away, we have to come back into the body to feel what's causing it. Quando qualcosa ci porta via, dobbiamo tornare nel corpo e sentire cos'è che lo causa. And if it's dullness and lethargy, we must refuse to be annihilated. E se sentiamo, proviamo torpore, dobbiamo rifiutarci di essere annichiliti, annullati. And feel it. E sentirlo davvero. And these three characteristics, desire, impermanence, not self. E poi queste tre caratteristiche, il desiderio, l'impermanenza e il non sé. If you do it in that order, with everything that you're experiencing, I think you'll find it much easier to work with. Se le affrontate in quest'ordine, in qualsiasi cosa di cui facciate esperienza, penso che lo troverete molto più facile lavorarci. See if you can keep up the noting so that it becomes a habit. Vedete se riuscite a mantenere questa abitudine, mantenere l'abitudine di annotare, di mettere etichette, in maniera che diventi appunto abituale. Ah. Slow down. e rallentate. And see if you can catch your intentions. Vedete se riuscite a cogliere le vostre intenzioni. Intending to open a door. Intendo aprire la porta. Huh? Just one moment of stillness while you feel where you acknowledge the intention. Un momento di quiete in cui riconoscete l'intenzione. So I can only hope my words have been of some assistance. Quindi spero di esservi stato utile. Ah, that I have not caused even greater confusion. Di non avervi causato ulteriore confusione. And that by your commitment to this particular form of practice. E che attraverso il vostro impegno in questa particolare forma di pratica. You will be liberated from all sufferings. Sarete liberati da ogni sofferenza. Sooner rather than later. Presto piuttosto che tardi. Ah. So if you want to take a little break, do some walking meditation, and then we'll come back for the last sittings. Quindi se volete fare una pausa e fare una meditazione camminata, ci ritroveremo per l'ultima settimana.